L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata dell'Altro Pianeta, nella quale ritroviamo con piacere Anna Gerometta, che è presidente di Cittadini per l'Aria, e la ritroviamo, anzi, innanzitutto Anna, benvenuta. Buongiorno, grazie. La ritroviamo per un argomento nuovo, perché questa volta parliamo sì di emissioni, perché ovviamente questo è il grande del vostro lavoro come Cittadini per l'Aria, ma in un settore che finora non abbiamo mai toccato, perché parliamo del settore navale. E voi state lavorando molto, no, su questo filone adesso, per portare l'attenzione del pubblico su questa questione, che è una questione importante, tra l'altro con dei dati che avete già in mano, che riguardano la città di Genova, che sono particolarmente incredibili, direi, dopo quello che ho letto. Comunque Anna, adesso lascia a te di spiegarci di che si tratta. Sì, allora il progetto che ci stiamo avviando a portare in Europa o in Italia è quello effettivamente di porre riflettori sul problema delle emissioni derivanti dalle navi, che siano navi da crociera, che siano traghetti, che siano portacontainer. Purtroppo i carburanti utilizzati dalle navi sono centinaia di volte, anzi migliaia di volte, più inquinanti del gasolio, che già noi consideriamo molto sporco, che viene utilizzato dalle automobili. Quindi lo sforzo che noi vogliamo mettere in atto è quello proprio di far capire che le navi devono trasformare il loro carburante, un carburante a basso tenore di zolfo, che è un tipo di carburante che emette moltissimo meno emissioni di zolfo, e poi deve adottare le tecnologie esistenti per ridurre sia i NOx sia il black carbon. In realtà abbiamo effettivamente le emissioni delle navi danno un contributo di black carbon che ha anche un impatto climatico fortissimo. Consideriamo che, per esempio, nello scioglimento dei ghiacci dell'Artico si considera che il 50% dello scioglimento è attribuibile al black carbon. Allora, effettivamente, la ricerca sarà in questo periodo, in questi prossimi anni, perché non sarà un'avventura veloce, perché naturalmente il problema è molto importante, sarà quello effettivamente di convincere da un lato le compagnie che gestiscono il trasporto navale, quindi le navi da crociera innanzitutto, che sono le più grandi, i portacontainer e le compagnie che gestiscono i traghetti, ad utilizzare sistemi più sostenibili per il nostro ambiente. Noi non consideriamo mai che effettivamente le emissioni delle navi arrivano sulla terra e sono fortemente acidificanti, fortemente danneggiano, per esempio nel caso italiano le emissioni di zolfo sono quelle che danno il maggior danno per i monumenti storici, e quindi effettivamente il fatto di ridurre il contenuto di zolfo per l'Italia ha un particolare valore, un particolare significato, perché vuol dire, oltre a tutelare la salute dei cittadini, anche tutelare il nostro patrimonio artistico. Tra l'altro, appunto, alcuni dei nostri porti sono anche porti in città storiche, antiche, che hanno dei beni da tutelare, sia come porto, sia come appunto luoghi d'arte. Assolutamente. Consideriamo che appunto solo questo monitoraggio che abbiamo fatto a Genova alla fine di giugno ha dimostrato come, misurando l'attracco di un solo traghetto in una zona dell'entroterra, del centro della città di Genova, vicino alla stazione, a circa 800 metri dal porto, le polveri sottili, man mano che attraccava questa nave, aumentavano di 40 volte. Quindi si noi ci possiamo immaginare se questo è l'effetto fatto da una nave che attracca nel porto di Genova, che cosa vuol dire quando la sera, come abbiamo mostrato con una bella foto che c'è sul nostro sito in questo momento, ci sono magari 10 navi che stanno facendo il carico scarico, attracco, e quindi questo è un problema che va assolutamente affrontato. Sicuramente si può affrontare, nel senso che esiste la possibilità di sostituire e quindi essere meno inquinanti per le navi. Assolutamente. Il settore della navigazione, per esempio da crociera, è un settore in fortissima espansione, e quindi è un settore in cui c'è anche un ritorno economico notevole, e sicuramente è possibile utilizzare carburanti a basso contenuto di zolfo. Si consideri per esempio che per il trasporto, per esempio, e questa è una delle cose che tenteremo di fare, di convincere chi utilizza come logistica di trasporto merci le navi, che utilizzi compagnie che hanno determinati criteri e determinate attenzioni per quanto riguarda le emissioni navali. Se è stato fatto un conteggio dall'associazione NABU tedesca, per la quale nell'utilizzare un carburante a basso tenore di zolfo per una t-shirt, il costo aggiuntivo, ipotizziamo dal Medio Oriente ad Amburgo, è di 0,2 centesimi per ogni t-shirt. Quindi è chiaro che se anche il costo del carburante, diciamo più pulito, venisse scaricato, fra virgolette, sul consumatore, un costo talmente minimo che è assolutamente accettabile, e questo sarà uno degli sforzi che metteremo in atto, immaginare che chi compra, fra virgolette, il servizio di trasporto accetti di pagare un po' di più per fare sì che effettivamente la nave che trasporta il suo prodotto non sia così fortemente inquinante. Ma da un punto di vista della produzione di questi carburanti, anche lì bisognerebbe intervenire, si può fare tranquillamente. La produzione di carburante è assolutamente, sono diesel normali. Cioè il punto è che oggi, come oggi, viene usato quello che si chiama heavy fuel, cioè l'olio pesante. Bisognerebbe semplicemente passare dal heavy fuel, che è estremamente inquinante, estremamente sporco, carburanti con basso tenore di zolfo, tipo quelli che utilizziamo in strada noi in città o comunque sulla terraferma. E poi per fare questo passaggio ci va ovviamente un passaggio normativo, immagino, ci vuole semplicemente una scelta. Allora, il passaggio normativo ci potrebbe essere una richiesta specifica di un paese dell'Unione Europea nei confronti di chi passa nei porti. Hai detto benissimo, infatti lo sforzo di questo progetto sarà quello, in coordinamento con altri stati del Mediterraneo, di ottenere dagli stati del Mediterraneo che richiedano effettivamente una zona seca, cioè una zona a basse emissioni di zolfo. Però seca, ci rendiamo, che non vuol dire secca. Vuol dire Sulfur Emission Control Area. Okay. Però io la prima volta che l'ho letto ho pensato secca, come laguna secca. No. Però, ma per chiarire. Però insomma, effettivamente questo sarà, diciamo, il passaggio finale che noi auspichiamo possa avvenire fra 4-5 anni. Quello che invece oggi tentiamo di fare, e come diciamo stage intermedio del lavoro che ci ripromettiamo, è quello di convincere effettivamente gli armatori a volontariamente mettere in atto delle riduzioni delle loro emissioni. Noi crediamo che l'industria del trasporto navale, sia commerciale sia passeggeri, debba effettivamente essere responsabilizzata, e quindi faremo delle azioni che evidenzieranno quanto inquinante sia questa industria. Quindi cercheremo di fare sì che il pubblico in qualche modo chieda ai trasportatori di adottare dei sistemi che oltre, fra l'altro, i carburanti sono filtri per i motori delle navi, quindi come quelli delle automobili, e poi sistemi di riduzione catalitica per la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto, che anche effettivamente sono molto molto alte. È appena uscito uno studio fatto nel nord Europa che dimostra come effettivamente le emissioni di NOx delle navi sono estremamente importanti e in crescita. Questo è il punto. Le emissioni del mercato navale sono estremamente... Perché si diffonde sempre di più il trasporto via nave? C'è un incremento, c'è un incremento, assolutamente. C'è stato un incremento enorme dato sostanzialmente dall'apertura, diciamo, dei mercati orientali. E quindi e il nostro paese... E dal fatto che è quello più economico per ora, almeno rispetto al trasporto aereo e possibile rispetto al trasporto, immagino, ferroviario, insomma, che dall'Oriente non è... Assolutamente, per questo motivo... Effettivamente, da un lato ci sarà chiaramente un bilancio economico da tenere, però d'altro canto è chiaro che effettivamente quello che risulta del costo aggiuntivo dell'utilizzo di queste misure è assolutamente accettabile e dovuto in una situazione in cui dobbiamo davvero difendere il nostro pianeta. Fra l'altro, appunto, come dicevo, oggi si stanno aprendo, per esempio, questi con lo scioglimento dei ghiacci, questi percorsi di crociere nell'Artico. E quindi che andiamo ancora ad aggravare di la più, situazione. Ancora di più oggi, in cui appunto questi tragitti si stanno rendendo, no, ma si stanno rendendo accessibili al turismo di massa. È assolutamente cruciale che chi va là ci vada in maniera meno impattante possibile. Certo. E dunque, qualche buona esperienza già in giro c'è, vero Anna? E tra poco ne parliamo. Vuoi anticipare a flash che cosa ci aspetta dopo la pausa? Sì, chiameremo Daniel Rieger, che appunto è un responsabile dei trasporti di NABU, che è questa grandissima associazione ambientalista tedesca che ha già fatto questo progetto nel Mare del Nord e nel Mar Baltico. E ne parliamo racconterà... tra poco. Ne parliamo tra poco, grazie. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini per questa puntata dell'altro pianeta, nella quale stiamo parlando di emissioni che provengono dal settore navale. Con noi c'è Anna Gerometta, che è la presidente di Cittadini per l'Aria, che conosciamo bene perché in passato abbiamo già avuto ospite molte volte, ma questa volta è la prima in cui parliamo di navi. Abbiamo parlato dell'esempio di Genova, dove Cittadini per l'Aria hanno rilevato delle emissioni consistenti ed evidentemente provenienti dalle navi, perché le avete misurate nel momento in cui una nave attraccava al porto, prima di questo attracco, dopo l'attracco e così via. Quindi la situazione è ben chiara, è nota, e si sta lavorando a questo tema non solo in Italia con voi, ma anche nel resto d'Europa. Tu prima hai anticipato che sarebbe stato nostro ospite Daniel Rieger, che è responsabile trasporti di NABU, che è una ONG tedesca che si occupa per l'appunto di ambiente, di sostenibilità, e quindi diamo il benvenuto a Daniel Rieger. Welcome. Hello. Hello. Allora, la prima domanda, ovviamente, Anna, direi che dobbiamo porre a Daniel è quella di necessaria a capire qual è il lavoro che loro hanno fatto nei mari del nord, in modo da poter riprodurre questa esperienza anche nel Mediterraneo, come state cercando di fare voi. So what we face in Europe is a situation where we have massive differences between the north and the south. In Europa abbiamo una situazione completamente diversa tra nord e sud. Al nord abbiamo un'area seca, quindi un'area con limiti per le emissioni di solfati nell'atmosfera, nella quale è obbligatorio per gli operatori marittimi lavorare con carburante di qualità. Questo è quello che accade nel Mar Baltico, nel Mare del Nord e nel Canale della Manica, ma nell'Oceano Atlantico e nel Mediterraneo, dove c'è un grande traffico navale, non c'è una regolazione di questo tipo. Le navi sono autorizzate a operare con carburante anche molto pesante e provocano quindi molto inquinamento nell'aria. Il fatto è che a livello globale le navi sono sostanzialmente fuori dalle preoccupazioni della gente. Le persone sanno che le auto inquinano, che i camion inquinano, ma le navi stanno in alto mare, sono lontane dalle preoccupazioni della gente normale. Ecco perché abbiamo avuto bisogno di affrontare il problema rendendolo prima di tutto visibile. La gente semplicemente non vede le navi e non conosce il problema, almeno che non vivano in città portuali. Quello che abbiamo fatto, quindi, è di partire dalla misurazione dell'inquinamento dell'aria con delle apparecchiature specifiche. Abbiamo fatto una serie di rilevazioni nelle aree portuali e in quelle vicine ai porti. Sappiamo che le polveri sottili e ultrasottili sono molto pericolose per la salute umana. Fanno male al cuore e ai polmoni, che sono organi vitali del nostro corpo. Ebbene, abbiamo controllato la quantità di inquinamento proveniente dalle navi e abbiamo dimostrato che è impressionante. Se paragoniamo l'inquinamento derivato da una nave da crociera a quello delle auto, vediamo che una nave da crociera emette tanto inquinamento quanto 5 milioni di auto al giorno. Ecco cosa significa quando una nave da crociera entra nella tua città e ne misuri le emissioni, stando direttamente sul molo. Le persone sulla nave e quelle che vivono in città subiscono un livello di inquinamento dell'aria del 50% e a volte perfino dell'80% in più a quello normale in città, dove comunque per le strade già ci sono le emissioni di auto e camion. Questo è il problema di cui nessuno si prende cura. Noi questa situazione l'abbiamo sollevata richiamando così l'attenzione dei media che a loro volta hanno informato il pubblico. E questo ha messo molto pepe alle compagnie da crociera e agli operatori navali. Loro stessi hanno cominciato a ripensare il loro modello di business, alla loro immagine e alla loro reputazione. Perlomeno i leader del mercato tedeschi, che operano anche nel Mediterraneo, hanno annunciato che installeranno dei filtri antiparticolato come quelli dei camion sulle loro navi. E questa è la prima volta che nel mondo verranno applicate queste tecnologie a delle navi. Beh, io credo che abbiate ottenuto un grandissimo risultato, insomma, comunque il primo passaggio, quello della misurazione, poi della presentazione pubblica di questi dati in modo che la cittadinanza sappia quello che succede, al punto da muovere le istituzioni che alla fine muovono le compagnie e a loro volta si sentono comunque necessariamente portate al cambiamento, perché c'è un movimento, certo, contro di loro che vuole il cambiamento. Direi che hanno ottenuto un grandissimo risultato e con una bella ricaduta anche per noi, perché queste navi che dalla Germania, comunque che hanno una casa madre in Germania e si muovono nel Mediterraneo, comunque si muovono con un carburante, certo, leggero e non pesante, come dicevamo prima, e quindi hanno già un impatto minore rispetto alle altre. Ora il problema è la diffusione però nell'area mediterranea di questo, quindi come può forse Nabu aiutare nel portare nel Mediterraneo questa esperienza? In effetti loro hanno iniziato da Venezia, e quindi Venezia e grandi navi e ambiente Venezia sono già coinvolti, come vi racconterà ora Daniel. A causa di queste diverse regolamentazioni tra Nord e Sud Europa, la qualità dell'aria risulta alla fine migliore nelle aree del Nord Europa che nelle aree mediterranee, dove ci sono moltissime navi da crociera che navigano tutto l'anno, inquinando molto, e molti traghetti che fanno la spola tra le isole. Noi pensiamo che in generale sia possibile per i paesi del Mediterraneo andare all'Organizzazione Marittima Internazionale, l'IMO, e chiedere che siano installati dispositivi di controllo delle emissioni come quelli che già noi abbiamo visto sulle navi del Nord. Questo ovviamente implica che i governi nazionali dei paesi del Mediterraneo si uniscano e chiedano insieme che questa regolamentazione sia messa in atto per ridurre l'inquinamento atmosferico proveniente dal traffico navale. Quello che dobbiamo fare insieme alle associazioni e organizzazioni non governative nazionali è evidenziare questo problema al pubblico. Dobbiamo dire insieme: guardate, c'è questo problema. Pensate tutti alle auto e ai camion, ma nel mezzo delle vostre città, nelle aree portuali, avete questi giganteschi impianti di produzione di emissioni che utilizzano carburante pesante. Bisogna fare qualcosa. Tutte le navi mercantili che trasportano merci dall'Asia dovrebbero essere regolamentate diversamente. Bisogna fare come è stato fatto in Germania, in Olanda, in Danimarca. Il pubblico, i politici, devono sapere che questo è un problema, ma che può essere risolto facilmente. Il governo italiano, il governo francese, quello greco e quello spagnolo devono mettersi d'accordo e rendere chiaro a tutti che vogliono questo tipo di regolamentazione. Intervenire è impossibile, però va reso evidente alle persone che c'è un problema e che si può affrontare. This is why we need to, you know, show the problem and make it understandable for people. Avrebbe un senso portare questa questione oltre che all'attenzione dei governi nazionali di Spagna, Italia e così via, e Germania, come ci diceva Daniel poco fa, portare all'attenzione anche della Unione Europea? Beh, in realtà l'Unione Europea potrebbe essere lo è già. Nel senso che l'Unione Europea ha una direttiva sul contenuto di zolfo dei carburanti delle navi che è stata approvata nel 2013 e che però effettivamente lascia scoperta la zona del Mediterraneo, e anzi dove in realtà la zona del Mediterraneo e quindi la, diciamo, riduzione allo 0,1% di contenuto di zolfo dei carburanti delle navi entrerà in vigore nel 2020 anche in Europa, salvo che una verifica nel 2018 non valuti che si pospone al 2025. Quindi anche questo meccanismo, diciamo, legislativo europeo è estremamente, diciamo, importante, deve essere seguito e supportato, facendo capire che effettivamente questo risultato si può ottenere al più presto nel Mediterraneo con un progetto che effettivamente evidenzi la possibilità e la disponibilità degli stati del bacino del Mediterraneo di aderire a una normativa estremamente, cioè non estremamente, ma più restrittiva nel più breve termine possibile. Che purtroppo però gli stati del Mediterraneo, se da un lato forse si può fare questo coordinamento, l'area sud adesso è totalmente completamente fuori controllo, ma sotto tutti i punti di vista, non solo ovviamente quello delle emissioni, come ben sappiamo. Si pensi poi che con il raddoppio del canale di Suez adesso ci sarà un'apertura di un traffico ancora maggiore che diciamo si dirigerà verso Trieste, e quindi è estremamente importante effettivamente intervenire per tempo. Daniel, ci può dire con chi altro collabora oltre che con Cittadini per l'Aria, che sappiamo, per quel che riguarda l'Italia? Stiamo lavorando in Francia con FNE, che è un'organizzazione ombrello per molte organizzazioni non governative che lavorano in campo ambientale. In Grecia lavoriamo con un'associazione di protezione degli uccelli, in Spagna con Ecologisti in Azione. Queste sono le maggiori collaborazioni che abbiamo nei vari paesi. Sono convinto che ci sia molta forza in questa unione, in questo network. Queste organizzazioni non governative sono già in contatto con i loro referenti nazionali e locali. Vogliamo raggiungere le grandi realtà portuali come Barcellona, Marsiglia, il Pireo e così via. Noi abbiamo la conoscenza, il knowledge necessario ad affrontare questa sfida e vogliamo condividerla, perché il problema è lo stesso per tutti. E i polmoni delle persone sono importanti in Germania come in Italia. La soluzione può essere la stessa per tutti. Possiamo fare come abbiamo già fatto qui e avere successo. Sono convinto che i nostri partner sono molto preparati e che quindi ci aiuteranno a raggiungere un pubblico molto ampio ed evidenziare un problema che riguarda l'ambiente e anche il clima. Allora, io direi, Anna, che per il momento ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a una delle prossime puntate per seguire i vostri lavori e la vostra collaborazione, il che è già una bellissima cosa, perché grazie. Come abbiamo sentito la rete è vasta e infatti, questo periodo di Europa un po' zoppicante è bello che ci si lavori ancora insieme. Infatti abbiamo invitato le associazioni, i comitati che sono attivi nei porti, nelle città di porto, ad entrare in contatto con noi. Già alcuni si sono messi in contatto, invitiamo i cittadini delle città di porto a farsi sentire, perché avremo delle iniziative, avremo dei workshop, avremo dei momenti di condivisione delle informazioni, in modo che ognuno di loro possa effettivamente essere un tramite nella città in cui vive. Quindi ricordo il sito di Cittadini per l'Aria, che è cittadiniperlaria.org. Ringrazio Daniel Rieger, responsabile trasporti di NABU, in collegamento con noi dalla Germania. Have a nice day, thank you very much. Yeah, you're welcome, have a nice day. Thank you. E Anna, grazie a te anche per essere stata e per averci presentato Daniel, e quindi ci ritroviamo prossimamente. Grazie. Grazie a voi.